Albrecht Dürer, beh, in italiano arcaico è nato anche, noto anche come Alberto Dürer, sapete, no, questa italianizzazione un po' forzata. Nasce a Norimberga nel 1471, e tra gli artisti maggiori di questo XVI secolo, che viene considerato tra le parti più importanti nella pittura tedesca rinascimentale, con il protagonista Albrecht Dürer. Troverà contatti a Venezia, troverà contatto con un passaggio in quel di Trento. E beh, in quel di Trento che diventerà una delle protagoniste del Rinascimento. Non si parlerà più di un Rinascimento, almeno non parleremo di un Rinascimento, ma di rinascimenti, di intersezione con l'Europa, di intersezione con la Germania, e il passaggio di Albrecht Dürer in Trentino, che è avvenuto tra il 1494 e il 1495, è un episodio di grande rilevanza nella carriera del maestro norimberghese, perché le dinamiche di rapporti artistici tra Germania e Italia lasciano tracce non indifferenti nella regione di Trento e nei territori dell'Adige. Dürer e gli altri rinascimenti in riva dell'Adige. Beh, a questo punto ho contattato Laura Del Pra, tra le curatele di questa esposizione al Castello del Buon Consiglio. Come ben sapete, tanti sono i contenuti che abbiamo a proposito della rubrica in mostra dei nostri Last Minute, e ne sono ben contento. Non volevo perdere questo approfondimento. Quello che vi posso dire è che purtroppo terminerà il 13 ottobre, però il contenuto è indubbiamente tutti i tempi, per cui ho visto bene di cercare conversazione con la dottoressa Del Pra per avere possibilità anche in frequenza di presentare Dürer e gli altri rinascimenti in riva dall'Adige. Tutto ciò inizia con quello che è un percorso in mostra e un approfondimento a proposito delle opere. Ma innanzitutto va detto che le opere che sono convocate in mostra di Dürer sono collegate strettamente al discorso dei suoi viaggi in Italia, al suo transito attraverso l'Alto Adige e il Trentino, e quindi anche la conoscenza sua diretta della situazione culturale trentina, e ma anche ovviamente quello che era l'oggetto del suo spostamento, cioè l'arte rinascimentale italiana. Questa fecondità di scambi che caratterizza proprio anche questo suo spostamento ripetuto è anche, diciamo, cambiato, perché soprattutto dopo, con le sue splendide stampe, gli artisti trentini e anche quelli sudtirolesi poterono avvalersi di questi anche modelli, di questa modalità artistica, per la loro realizzazione, per le loro realizzazioni molteplici sul territorio. Quindi ha una, diciamo, un impatto fondamentale sia in vita con i suoi spostamenti, con quello che vede lui di questi splendidi panorami anche paesaggistici delle Alpi che non conosceva prima e che, di cui ha lasciato memoria, traccia fondamentale per gli acquerelli che noi chiamiamo trentini, ma anche, diciamo, ha influito profondamente sullo sviluppo artistico in virtù proprio della sua opera grafica soprattutto. A tale proposito c'è questo esempio esemplare, vi sono degli esempi esemplari di tutto ciò, e che intendete portare nell'esposizione e perché sono stati scelti? Ma rimanendo su le opere di Dürer in mostra, come dicevo, sono legate proprio a una particolare temperie culturale sia trentina ma anche della sua formazione. Vediamo infatti nella splendida Adorazione dei Magi della Galleria degli Uffizi, esposta appunto per la prima volta a Trento, come Dürer abbia già iniziato ad assorbire, a mettere in pratica quello che era l'atmosfera, la luce italiana che lui ha modo di vedere e di apprezzare così tanto da parlarne anche nei suoi scritti. Ma un'altra opera esposta è Il Cristo tra dottori, quella dipinta a Venezia proprio nella parte finale della mostra, dedicata alle inquietudini religiose. Bene, Un Cristo tra dottori, che è un'opera ammirabile, proprio per farci capire come fosse un artista capace di assorbire la lezione della pittura veneta, di farla propria e di creare poi dei capolavori assoluti anche per la loro originalità. Parliamo ovviamente di un artista che è il maggiore del Rinascimento tedesco, quindi che così si reca in Italia in primis anche per vedere quello che era la novità della prospettiva italiana del Rinascimento, ma poi anche cogliere quelli che erano i presupposti della pittura veneta in primis. E non solo, ovviamente, parlando anche, pensando anche a Mantegna, uno dei suoi artisti privilegiati e al centro del suo interesse. Sonora, allora abbiamo parlato Mantegna Morricone e Dürer Germania, parliamo della Compost Record con questo lavoro triplo che ho portato, che mi sono accaparrato da subito all'uscita, quando grandi produttori e DJ della Compost Record hanno fatto questa opera omnia dedicata al maestro Morricone con sonorità portate dalle loro ispirazioni, traducendole nelle sonorità del maestro Morricone, Dürer e gli altri rinascimenti in riva all'Adige. Sì, perché si parla di rinascimenti, in questo caso non è più identificato come una singolarità, ma quanto una parte ben più eterogenea. Al Castello del Buon Consiglio non volevo perdere la presentazione, anche se la possibilità per ammirare questo percorso in mostra sarà fino al 13 ottobre. Se volete un weekend a Trento ve lo consiglio assolutamente, potete portare altre opere d'arte, questa volta sono altre espressioni, ma tanto a cuor mi stanno e sono i canederli, che per me sono di una bontà. Trentino è sempre stata, come del resto sappiamo, una transizione, a proposito di transizione che abbiamo parlato con il Robot Festival, dall'Italia settentrionale alla Germania, ma all'epoca anche alle Fiandre, ed è una transizione che vede una via di comunicazione non solo artistica ma anche commerciale e culturale. L'arte ne è stato un linguaggio fondamentale. Ora parleremo di un altro personaggio che deve essere assolutamente evidenziato se parliamo di queste zone e di questa espressione artistica. Si può parlare anche del ruolo di un personaggio che è Massimiliano I e della sua connessione con Trento nel contesto poi artistico dell'epoca? Assolutamente, il territorio dell'antico Principato Vescovile tra il 1460 e il 1530, che è sono i termini cronologici di sviluppo di questa mostra, vedono non solo Dürer come protagonista, ma anche quello che diede molte commissioni a Dürer, cioè Massimiliano I, che impegnato nella guerra della Lega di Cambrai e sospinto dall'ambizione di consolidare un ruolo degli Asburgo anche nella penisola italiana, più di una volta, almeno 5 viaggi, 5 soste prolungate fece appunto nel territorio trentino, anche soste di più mesi, sostando nella dimora dei principi vescovi, quella fra l'altro ritratta da uno splendido acquerello che per la prima volta in Italia ha esposto e che è stato prestato dal British Museum, un acquerello che riproduce da parte del dire proprio l'aspetto del Castello del Buon Consiglio prima dell'aggiunta del Magno Palazzo, cioè di quella residenza rinascimentale voluta dal principe vescovo Bernardo Clessi. Bene, c'è una confluenza appunto di aspirazioni politiche da parte degli Asburgo, di ricerca di novità del Rinascimento italiano, ma anche interesse da parte degli artisti di formazione italiana verso quello che era il Rinascimento transalpino, quindi attraverso il varco, il vero e proprio varco che era costituito dalla vallata dell'Adige, che collegava così strettamente il nord con il sud e viceversa. Cioè sono tutti rapporti pluridirezionali, lo sottolineo perché dobbiamo immaginarci anche nel territorio trentino con le influenze che ci venivano dalla Lombardia nello stesso periodo e dal territorio dell'Alto Veneto, e non a caso è anche il periodo dei grandi flügelaltäre, queste grandi macchine altaristiche che sono un'espressione tipica della cultura tedesca, ma che popolano letteralmente molte chiese di tutto l'arco alpino, anche la Val d'Aosta, il Piemonte, ma anche il Friuli Venezia Giulia, proprio tutto l'arco alpino è invaso da questa tipica espressione artistica devozionale della cultura transalpina. Quindi una mostra che offre varie chiavi di lettura, varie articolazioni e anche stratificazioni temporali di un periodo molto complesso dal punto di vista storico, di scambi commerciali, politici, economici, ma soprattutto culturali, che riflettono proprio un periodo estremamente complesso e estremamente vivace. Adesso io ho questa. A me Dürer piace tantissimo, tra l'altro, da appassionato, e per quello anche che ho insistito, nonostante le tempistiche, di volere questo approfondimento. Cristo XII tra i dottori è un'opera. Cercatela, che le immagini adesso sono a disposizione. Guardate la bellezza di questo capolavoro. Ve lo vorrei descrivere se avessi tempo, ma vi assicuro che è di una bellezza incredibile. Grazie a Laura Dalpraco, curatrice Castello del Buon Consiglio, per questa esposizione. Andiamo in conclusione allora. Il linguaggio comune di tutte queste caratteristiche, indubbiamente, per tutti i tempi ne resta l'arte. Sì, ma tutto ciò grazie all'arte comunque ha vissuto anche un'intersezione importante. Assolutamente. Normalmente magari si è portati a pensare che il Rinascimento italiano fosse compatto e preponderante. In realtà questa mostra, una volta di più, dimostra che si deve parlare di rinascimenti e anche di continue reciproche influenze. abbiamo dei casi di pittori veneti che guardano con molto interesse le modalità pittoriche e artistiche soprattutto del mondo tedesco, e abbiamo dei pittori sudtirolesi e transalpini che guardano e si spostano all'interno della penisola italiana proprio sospinti dalla volontà di capire il nuovo linguaggio rinascimentale diffuso. Ecco, questa pluralità di fermenti e di curiosità e di volontà di approfondire, come appunto dimostra lo stesso dire, è l'elemento diciamo più affascinante di questo periodo storico, soprattutto per quanto riguarda, come ripeto, i rinascimenti dell'arco alpino, certo, che sono molto frastagliati, molto anche con varianti a seconda di zone geograficamente anche abbastanza limitate, ma con differenze sensibili e comunque sempre facendo parte della stessa coinè culturale che si sviluppa proprio in questa manciata di decenni a scavalco tra il tardo gotico e il Rinascimento. Allora, Dürer e gli altri, Rinascimenti in riva all'Adige, a Trento, al Castello del Buon Consiglio, sarà fino al 13 ottobre, però ho trovato importante aggiungere questa esposizione per inizio stagione della rubrica in mostra 2024-2025 proprio per questi contenuti. Quindi io, dottoressa Dal Pra, la ringrazio tantissimo e magari ci risentiremo per altre esposizioni qua su Radio Città Fujiko. Grazie e buona giornata. Grazie e buona visita. Rainer Truby, per dire un po' qualche nome della Compost Record, Jezzanova, potrei aggiungere anche altri produttori come Christian Prommer, e poi ve ne sono diversi che hanno fatto diversi collettivi sempre nella ricerca della produzione di musica EDM elettronica, ispirandosi al passato, in questo caso con uno sguardo molto completo alla produzione di Ennio Morricone, quindi tra Italia e Germania. Siamo arrivati alla conclusione, sono le 8:50 in questo momento. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. Oggi è una colazione corposa, bella ricca, ma anche domani andremo in scena, quindi la vigilia di weekend con il Breakfast Club vi aspetta dalle ore 7. Vi ricordo che oggi dalle 10:30 alle 12:30 avrete Disesa Rock and Roll Radio con Andrea Gozza e Angela Zocco, domani in scena con il Breakfast Club, a breve con le dipende Enciclopedico seguito da Liberi Dentro e rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Dal vostro William Piana per questo giovedì molto forte. Veramente tutto, e con un caloroso abbraccio mi congedo a voi augurandovi buona giornata e un buon ascolto. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.